Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Andrea, sembra che tutti quanti ormai sappiano il suo aforismo. Dopo pranzo ho fatto una dormita, dopo ho giocato un po' con PlayStation e la sera ho vinto il campionato mondiale. E cosa pensa di fare domani? Dormirò, mangerò e verrò qua per giocare la partita. Non giocherò più alla PlayStation come facevo una volta, però non è che dovrò cambiare molto le mie abitudini. Dobbiamo convocare la banda. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sono tranquillo perché purtroppo non posso più giocare. Sono sereno, non vedo l'ora di iniziare perché sarà la mia prima partita da allenatore in Champions, però come succede in questi tornei, in questi primi gironi, la prima partita è fondamentale. Arriviamo da una brutta prestazione, probabilmente la più brutta degli ultimi anni. Dovremo senz'altro fare una gara diversa domani, perché la mia squadra in questi anni ha sempre dimostrato grandissima determinazione, grandissima aggressività, e queste componenti sono le prime che dobbiamo mettere in campo. Ogni stagione alla fine si parte sempre per provare a vincere, poi se sia nella lista dei primissimi favoriti o la seconda, la terza, la quarta, quello sono cose che fate voi e che a noi interessano relativamente. Siamo consapevoli dei cambiamenti che poi erano necessari dopo un po' di anni, però c'è grande volontà e convinzione di poter ambire a grandi traguardi, e poi il tempo ci dirà dove possiamo arrivare. Col Borussia l'ho vissuta da protagonista, si può dire che giocavo più in Champions che in campionato, quindi so quanto è importante e difficile questa competizione. Posso dire ai miei compagni, quel poco di esperienza che ho, che è una competizione, è una delle più belle da giocare quando fai il calciatore. Pirlo, Inzaghi, Chiellini, Immobile nell'ordine, e Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, e Radio Tui di Pierluigi Pardo. Ciao. Innanzitutto, guarda, lo dedico a Ciro Immobile, ma lo dedico ovviamente a tutte le italiane, che sia veramente una Champions di ripartenza, che sia una Champions che confermi i passi avanti che sennò il calcio italiano ha fatto negli ultimi tempi. A Immobile in maniera particolare, perché ultimamente, secondo me, l'ho già detto, insomma, è stato sottoposto a qualche critica un po' eccessiva, e mi spiace perché invece il contributo che questo ragazzo ha dato negli ultimi anni è clamoroso. Oggi, dopo quella con Lewandowski, c'è un'altra sfida con un altro grande attaccante, giovane, promettente, fortissimo, e però insomma il concetto è un banale in bocca al lupo a tutte e quattro, anzi a tutte e sette, perché poi c'è anche l'Europa League che è bellissima, non deve essere sottovalutata. Abbiamo tre grandi club che la giocano, Roma, Milan e Napoli, può essere un'occasione per trovare un po' di gloria anche lì. Allora, è bellissimo in questo giorno in cui parte il torneo di calcio più bello del mondo, cioè la Champions League, parlare con chi la racconta. Con te, Pier, parlo tutti i giorni, con Federico Ferri, direttore di Sky Sport, un po' meno. Ciao Federico. Ciao Fede. Ciao, purtroppo, perché è un piacere, sempre. Senti, novità, partiamo dalle novità di casa tua, di Sky. Ovviamente tutte le partite e poi un volto nuovo, bellissimo, di tremenda competenza come quello di Anna Billò. Beh, hai detto tutto tu. Diciamo che abbiamo fatto un cambio dovuto al cambio di vita professionale di Ilaria, e quindi abbiamo giustamente puntato su un volto di grande capacità, professionalità e anche, devo dire, con grande orgoglio per tutti noi di Sky, un volto cresciuto, un talento cresciuto all'interno di Sky, e che è quello che ci piace di più, cioè, che Pier conosce bene. E quindi sicuramente sarà un grande studio. Ci schieriamo, noi abbiamo la possibilità anche di fare un turnover di altissimo livello, perché stasera ci schieriamo con Del Piero insieme con Capello, con Do e Costa Curta, e domani ci schieriamo con Cambiasso al posto di Del Piero, quindi ci ragioniamo di più domani e oggi attacchiamo di più, quindi possiamo dirci molto molto molto fortunati con Anna e il resto della squadra. Però di tanto in tanto me li presti loro, con piacere. E devo dirti che quando si è in queste ore, prima della partenza di un torneo come questo, davvero c'è una bella sensazione, perché la Champions regala, l'abbiamo detto, niente come la Champions in questi giorni per lanciare questo evento, però regala delle sensazioni, e questi primi turni che ci regalano già partite così emozionanti, al di là di quelle delle italiane che conoscete bene, però io penso, visto che ho Pier in collegamento, so che è pura poesia per lui un Ajax-Liverpool domani, ad esempio, assolutamente. Quindi siamo molto carichi anche per questo. Sì, non la vedrò perché farò Inter-Gladbach ovviamente per canale 5, però mi unisco assolutamente alle parole di Federico. Tra l'altro, insomma, non è un mistero, stamattina ho mandato un messaggio di bocca al lupo ad Anna, che mi ha risposto, insomma è veramente... È la competizione più bella che c'è. A che edizione sei, Pierluigi? Oh, questa è una bella domanda, non lo so, direi. Ho iniziato forse con Stream a fare delle cronache della Champions, nel 2001, una roba di questo tipo. Sei molto anziano. Sono molto vecchio. No, però devo dire che mi fa estremamente piacere per Anna, permolestando che in aria veramente ha fatto una scelta professionale diversa adesso, ma insomma ha caratterizzato gli ultimi 20 anni, ecco, tutta questa prima parte del percorso secondo me ha veramente cambiato il percepito, secondo me ha aperto anche, secondo me, a una conduzione molto più femminile, ed è stata bravissima in tutti questi anni, per cui, però insomma Anna secondo me veramente l'ha dimostrato in questi anni in Europa League. Io tutti i giovedì in cui ero libero mi sono guardato le partite, competenza, eleganza, garbo, poi insomma tutti quegli anni passati con Porrà, insciagurato nel cercare un racconto del calcio che non sia soltanto quello più bello. Quello più bello è chiaramente la cronaca delle partite. Io vorrei poter raccontare una finale di Coppa del Mondo tutti i giorni, penso che Federico da direttore viva la stessa emozione, però poi è bello anche quando si riesce a uscire dalla stretta attualità e il calcio diventa memoria, diventa racconto, e Anna l'abbiamo vista spesso con Porrà, con Buffa, con gli speciali, con Marani, e quindi insomma sono particolarmente contento. E quindi buon divertimento a tutti. Posso aggiungere una cosa a proposito del divertimento? Sì. Io credo che, Carlo, credo che una cosa che ho detto ieri preparando un po' questa giornata è che dobbiamo cercare, attraverso competizioni come queste, non solo in un periodo come questo, ma in generale, di divertirci di più col calcio. Perché mi pare che siamo tutti troppo incazzati. Cioè c'è intorno al calcio che mi sembra veramente... Cioè, Da battaglia verbale su qualunque cosa. L'Europa del calcio ci riporta anche una dimensione un po' più serena da questo punto di vista, e quindi la ricerca del divertimento non è una cosa da poco, la ricerca dell'apprezzare il gioco non è una cosa da poco, e credo che ne abbiamo un po' tutti bisogno, perché il clima da questo punto di vista mi piace poco, e credo che piace anche poco ai veri appassionati. Sì, eppure nel nostro piccolo pure a noi, no? Nel nostro piccolo pure a noi siamo in battaglia perenne, Pier, dimmi. Che i social network, e nello specifico Twitter, non sono la vita è assolutamente, che incontriamo in carne ed ossa, però si parla solo di arbitri, solo di cose, di sfumature arbitrali, quando poi in realtà, secondo me, le partite di calcio sono molto altro. E in un momento come questo manca l'elemento più bello, che è il pubblico, ma dal punto di vista dello spettacolo in campo, forse c'è anche un nesso tra le due cose. Stiamo vedendo delle cose interessantissime, stiamo vedendo dei difensori in grande difficoltà, stiamo vedendo un calcio in cui gli attaccanti provano le giocate forse con maggiore spensieratezza che è un calcio più tecnico, probabilmente. Stiamo vedendo, sì, un calcio più arcade, direi, visto che prima qualcuno parlava di PlayStation, Pirlo, no? Un po' più arcade, un po' più da sfida, senza troppi tatticismi. E lo spettacolo è divertente, ma la parte arbitrale ovviamente è importante, deve essere capita, ma anche lì deve essere capita raccontando il regolamento, non... perché sennò diventa tutto lista verbale. In Europa è bello perché si allargano i confini. Siamo arrivati al punto che che una polemica così seria e così terribile su quello che di terribile sta avvenendo oggi, quindi lotta al contagio, gente che sta male, precauzioni da prendere, ma al tempo stesso economia da non bloccare, cioè abbiamo una sfida davanti a noi che è enorme, e questa roba in un certo momento è diventata quasi un terreno di scontro fra squadre di calcio, perché una non è partita, l'altra si è presentata al 3-0, ma cerchiamo di volare un po' più alto, perché qui veramente la passione del gioco, del calcio in questo momento invece dovrebbe portarci provare a regalarci un po' di spensieratezza, in ore che spensierate non sono. Guarda, le coppe hanno sempre avuto il grande merito di allargare comunque i confini, portandoli fuori dalle polemiche del cortile o del condominio. Invece sul campo, Fede, gli exit poll di campionato dicono che potrebbe essere la Champions più incerta di sempre, perché se tu mi chiedi un favorito io ti posso dire il Bayern, perché l'ha alzata pochi mesi fa, Paris Saint Germain, forse City, la Juventus con un enorme punto interrogativo, la parola corretta invece mi sembra incertezza su questo torneo più che in qualunque altra edizione. Assolutamente, io ci aggiungo alla lista il Liverpool, perché l'anno scorso secondo me è stato solo un incidente di percorso, ma è ancora una squadra che può arrivare fino in fondo, però credo che non siamo mai partiti con così poche favorite, e forse anch'io sono d'accordo, il Bayern è davanti a tutti ancora per solidità, per capacità di giocare a quel livello e per il fatto appunto che è ancora molto recente quello che è stato fatto ad agosto. Però certamente da questo punto di vista è una Champions esaltante. Io non escludo un buon percorso da parte della Juventus, anche se questo è davvero punto interrogativo, e devo dirti non l'escludo neanche da parte dell'Inter, perché io continuo a pensare che sia una squadra che ha le caratteristiche per affrontare un percorso europeo di livello, e essere arrivato in finale di Europa League è certamente un grande allenamento anche per la Champions. Intanto sogniamo il poker o il sette bello, se volete allargare il discorso all'Europa League. Il punto interrogativo invece intorno alla Juve, sto sempre da Federico Ferri, il punto interrogativo intorno alla Juve come lo leggi? Cioè che Juventus ti aspetta a questo debutto, dove tra l'altro, ma questo è un capitolo che tocchiamo dopo, giocherà a Kiev oggi davanti a 21.000 persone, non davanti alle 1.000 cui è abituata nei nostri stadi. Situazione Juve. Allora, il punto interrogativo è dettato dal fatto che non c'è ancora una Juventus definita, non è ancora la squadra che ha in mente Pirlo, probabilmente le idee di Pirlo devono ancora definirsi, non ha un concetto che vuole applicare a prescindere dai giocatori che ha a disposizione, ma vuole adattare il suo gioco, il suo calcio ai giocatori che ha la Juventus. Il punto però in questo momento è proprio quello, cioè che giocatori ha la Juventus a disposizione. Questa è una squadra che ha sicuramente un'incognita che si chiama Dybala. Secondo me dal ruolo che avrà Dybala in questa squadra si capirà il sistema di gioco che vorrà applicare Pirlo, il ruolo di Ronaldo, che è fondamentale da questo punto di vista, cioè la capacità di mettersi a disposizione degli altri di Ronaldo, di andare comunque per la sua strada e pretendere anche sulla base del suo valore che gli altri si mettono completamente alla sua disposizione. Sì. E quindi, non avendo ancora visto mai in questa stagione Dybala, il punto interrogativo lo tengo soprattutto lì. Detto questo, è veramente un cantiere, devo dire, probabilmente più di quanto non lo fosse l'anno scorso all'inizio la squadra di Sarri. Sì, qui torniamo al famoso lodo Pardo di cui abbiamo parlato in questi giorni, Pierluigi. Sì. Aggiungendo Dybala, che se Dybala è un punto interrogativo, miglior giocatore praticamente della Juventus nella passata stagione, beh, è chiaro che quell'incertezza bisognerebbe levarla alla svelta, al di là delle cose, delle questioni contrattuali di cui si parla, al di là dei chiarimenti, delle rabbie, dei chiarimenti di cui ha parlato Pirlo. Si era incazzato, poi gli ho parlato, adesso non l'è più, però stasera probabilmente non gioca. Ha ragione Federico quando dice che comunque è oggetto del contendere. Ma Dybala è quasi imprescindibile in questo momento, perché banalmente secondo me la Juve ha perso il centrocampo in questi anni. L'altro giorno Federico Balzaretti ha fatto una domanda nel post partita di Crotone Juve a Morata sulla differenza tra il centrocampo della Juve di oggi e quello della Juve dove giocava lui, quella che arrivò in finale ad esempio a Berlino, ribadisco, giocando a testa alta, anche se battuto a Barcellona. In quel centrocampo c'erano Pogba, Vidal, Pirlo e Marchisio. E oggi il centrocampo della Juve non è la stessa cosa, è clamorosamente calato rispetto a quel tempo. In più c'è sicuramente Cristiano Ronaldo, che quando è in giornata, e lo è spesso, è in grado di fare la differenza. E insomma, Dybala è un talento che secondo me non è in questo momento rinunciabile per la Juve, così come penso che Eriksen in qualche modo all'Inter, insomma, si debba trovare una mediazione, perché non lo lascerai perdere quel talento lì. Io penso che Pirlo con Dybala debba trovare una quadra, e quindi sì, il tema c'è. Beh, la Juve a Crotone mi è sembrata in affanno, mi è sembrata molto confusa, e ribadisco, Pirlo è all'inizio a tutti gli alibi del mondo, però forse la strada più semplice per lui potrebbe essere quella di play simple, giocatela semplicemente, non ti inventare niente di clamoroso, non dover stupire per forza. Parlo per esempio di Portanova titolare dal primo minuto, che pure ha giocato bene, no? Però magari una squadra che in questo momento ha bisogno di qualche certezza in più, di qualche meccanismo collaudato in più, magari anche di qualche faccia che si conosce in più. Bravo, comunque la Juve, magari vince il campionato, magari fa due mesi va in fuga, non sarei affatto sorpreso. Se vai un po' più sull'usato sicuro, anche dal punto di vista delle scelte del personale a disposizione, poi ha ragione Federico quando dice il bravo allenatore è quello che fa rendere al meglio il materiale umano a disposizione, che fa rendere al meglio il suo personale. E da questo punto di vista la Juventus certamente ha perso molto a centrocampo rispetto a quella che evocavi tu, ma altrettanto sicuramente davanti è molto più forte. Invece, considerazione di sistema da cui non si può prescindere, Federico, mai come quest'anno si cammina sulle uova, no? Per quanto riguarda lo svolgimento del torneo. Guardo in controluce l'Eurolega, che dopo quattro partite terminate 20-0 ha detto no, 20-0 non è accettabile, perché si snatura completamente il torneo, recupereremo le partite che non sono state disputate. Piano B anche per la Champions necessario oppure no? Sì, sicuramente necessario. Il punto qui non è tanto il discorso del 3-0 a tavolino, perché poi se fossero a pioggia, voglio dire, non attribuibili a nient'altro che non alla situazione dei contagi, a quel punto bisognerebbe trovare una soluzione diversa, e per quanto riguarda la Champions non può che essere l'applicazione in modo differente di fatto di una sorta di raggruppamento, come è stato fatto quest'estate, ovviamente a livello più locale, cercando di far svolgere i gironi in meno tempo e tutti in un posto definito, o meglio, ciascun girone in un posto chiuso dove si possa creare una bolla. Sì. Questo però è un piano B che non è stato reso noto, che sinceramente non ho notizia che sia stato predisposto in questi termini, ma che, visto l'efficienza dimostrata da UEFA, secondo me, in questi mesi, credo certamente che sia perlomeno all'ordine del giorno. Sì, come è stato percepito, secondo voi, e riparto ancora da te Federico, l'esperienza dell'ultimo finale di Champions, come è stato percepito dal pubblico? Allora, devo dire che il riscontro è stato molto buono, se parliamo in termini di ascolti, se parliamo in termini di interesse che si è creato, al punto che non escludo il fatto che possa in futuro aumentare la fase a gironi, garantendo quello che oggi non avviene, ovvero che più squadre forti si affrontino. Ho citato prima Ajax Liverpool, no, Juventus Real Madrid, Juventus Barcellona, Inter Barcellona, insomma che si scontrino squadre di alto livello in un girone un po' più lungo, e che poi si chiuda con una formula di quel genere. Io credo che un dubbio sul futuro della Champions, il dubbio positivo intendo da questo punto di vista, quel finale l'abbia lasciato. Sì, sei d'accordo Pierluigi? Sì, sono d'accordo, mi ricordo che a marzo parlavamo di Final Four, Final Eight, e sembravamo dei pazzi, e poi in realtà si è verificato, e mentre le vivevamo dicevamo ma sai che non sono male, e credo che Ceferin abbia detto che non le Final Eight, che in effetti sono un po' troppo perché significano togliere quarti di finale e semifinale, ma magari le Final Four sono un'ipotesi, secondo me, possibile, plausibile, magari cambiando la formula non so se tornando ai due gironi, però sì, insomma, cioè, secondo me è chiaro che perdere la semifinale doppia è sicuramente un'emozione che ti perdi, però anche l'idea di avere, soprattutto quando si potrà tornare a viaggiare, quattro squadre in una città che la invadono pacificamente per una settimana, beh, insomma, può essere bello, no? Con dei tempi di recupero a quel punto perfetti, 6-7 giorni puoi fare tutto. Certo. No, io penso che sia tutto interessante, ma penso che di fondo il prodotto piaccia. La cosa vera è questa. Come fanno a piacere? Capisci, la cosa con la quale spesso combattiamo è che sembra sempre che dobbiamo ribadire il fatto che questa è una passione che riguarda tutto il mondo, questa è una passione trasversale, è una livella che attraversa le classi sociali, che attraversa i continenti, che gira per il mondo, ci sono persone in ogni angolo della terra con le maglie di Messi e di Cristiano Ronaldo, quindi non è un divertimento per bambini viziati o per gente che non conosce la serietà della vita. E la Champions League è il massimo di questa roba qua, quindi ha una dignità culturale che poi ovviamente nessuno di noi oggi parla più. Dobbiamo quasi smettere anche noi di giustificarci, cioè onestamente. No. Non abbiamo nulla da giustificare. Questo gioco e lo sport in generale non è solo la nostra vita professionale. Ci piace da morire e va bene così, lo ribadiamo a chiunque. Non abbiamo più bisogno di giustificarci di fronte a quelli che, ma tanto cosa volete che sia. Ciao Federico. Ciao, ci vediamo stasera alle 18 allora. Ci vediamo stasera alle 18 naturalmente. Ciao. Ciao, grazie Fede. Indovina cosa faccio adesso, Pier? Sì. Non lo so, io volevo dire una cosa. Vai, dilla. No, che nessun dirigente sportivo oggi, come è ovvio che sia, nella situazione che in 20 giorni è profondamente mutata, esprime più una mezza richiesta o una mezza idea sul riaprire parzialmente gli stadi. È ovvio che come è cambiata la situazione in questi 15 giorni non se ne parli più. Era altrettanto ovvio che il 20 settembre se ne riparlasse in un mondo che forse illudendosi sperava di poter ricominciare in maniera quasi normale. Quindi il mondo del calcio non vive fuori dal mondo, è consapevole dei problemi che ci sono del mondo, credo, non è un mondo di pazzi. Ed è chiaro che in questo momento la riapertura degli stadi è la priorità numero 8478 rispetto ai problemi che abbiamo. Non si tratta di cambiare idea, si tratta di prendere atto della situazione con grande buon senso. Ascolta, come si chiamava quel tuo amico che ti batteva sempre a Subbuteo? Alessandro Ferrante, ma in realtà è famoso nella storia perché poi l'ho battuto in un 3-2 clamoroso, ma poi mai mi batteva sempre. Tra l'altro è anche un ascoltatore di Radio 24, vado a vedere se già mi sto scrivendo su WhatsApp perché è un grande ascoltatore. È un grande ascoltatore, benissimo. Da domani puoi dirgli che tu conosci il CEO di Giochi Preziosi, che è quello che produce Subbuteo. Buongiorno Dario Bertè. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la convocazione. Ma grazie a lei, anche perché io e Pierluigi siamo in attesa di, appena arriverà qui in redazione Radio 24, di una grande sfida a Subbuteo, grazie a lei. Tra l'altro gioco cui noi tutti, beh, Pierluigi è giovane, nonostante rivendichi una... Io sono drammaticamente vecchio ormai, ma la quantità di cose divertenti e infantili delle quali mi... ho la fortuna di occuparmi, no? Riuscire ad invecchiare senza diventare adulti, battiamosi. È esattamente l'obiettivo, è esattamente questo. Mi rendo conto che può essere visto anche male, però e devo dire che poi il Subbuteo è molto vintage perché mi ricorda un pezzo di vita. Io fosse per me giocherei fra 5 minuti. Cioè, è questo. Io sono pronto. Tra l'altro ci sono le due squadre, quella rossa e quella blu, che c'era nella confezione degli anni 70, cioè quella che io ricevetti a Natale, che una era l'Everton e l'altra non mi ricordo più chi erano i rossi, come venivano presentati i rossi. Ma comunque lei giocava su Subbuteo, Dario? Vabbè, certamente giocavo a Subbuteo e come vedete adesso è stata l'evoluzione, che il Subbuteo visto oggi inizia la Champions League, c'è la versione Champions League che avete visto e quindi ci si può sbizzarrire sperando che le quattro italiane vadano avanti tutte. No, poi, no? Ma c'è ancora l'Astro Pitch, lo dico per chi non lo sapesse, quelli della mia generazione, l'Astro Pitch era il panno verde versione premium, quella un po' più fighetta con prestazioni. Te lo ricordi, no, l'Astro Pitch? Sì, io sì. Purtroppo adesso la produzione è più limitata, perché è chiaro che videogiochi hanno portato via tanto, però giocare a subbuceo e giocare in tridimensione è sempre più divertente. Quindi io vi ascolto sempre in podcast la sera quando torno a casa dall'ufficio, e quindi settimana scorsa è più volte ricordate subbuceo, quindi mi sono preso questa libertà. Mi fa piacere. Lei è uno dei delusi dal derby, è interista? Sono deluso dal derby, ma ottimista, perché sposo le tesi di Pardo, e quindi poi domani sera abbiamo visto che mi pare che l'Inter è su Canale 5, quindi sì. non lo guardo su Sky, ma ascolto Pardo. Sì, io non ho un grande... In realtà sui pronostici di lungo periodo ci becco abbastanza, sui pronostici sulla partita secca sono più in difficoltà. Secondo me in un campionato come questo, che è pieno di variabili, molto più del solito, però se devo guardare le rose delle squadre, l'Inter mi sembra la più completa. Il Napoli mi sembra che nelle prime 2-3 partite abbia fatto capire, abbia trovato la quadra, e la quadra è molto legata secondo me a Osimhen e alla capacità tattica di allungare la squadra. La Juve ovviamente ha una quantità di talento che se trova un minimo di quadra è pericolosissima, e questo è. Poi ovviamente rispetto massimo per il Milan, che sta facendo cose clamorose, e con Ibra mai dire mai, però ecco, secondo me questa è la situazione di un campionato molto più equilibrato rispetto al passato, perché per me veramente sono sette sorelle. Impossibile. Poi non è che da leggere. Non mi aspetto sette squadre che arrivino alla pari, però penso che tra quelle sette non ci saranno grandi differenze, dove dentro metto ovviamente Lazio, Roma e Atalanta, oltre alle quattro. Certo. Ciao Pier, sentiamo domani. C'è Bartur, saluto anche Dario Bertetti, anche perché arriva Mario Bartoletti, che peraltro su Guerin Sportivo aveva dedicato al subbuteo cose meravigliose, credo sia nella galleria del subbuteo, quei numeri del Guerin Sportivo. Grazie Dario Bertetti. Grazie, è stato un piacere. Piacere tutto nostro, ci vediamo per la borsa. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Ora! È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Tutti convocati. Uè, ragazzuoli, è aperto il Bar Tour. Offrono Turrini e Bartoletti. Ma fatte, oh! Partivo una mattina con vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa, scusi signore, perdoni, lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo gli chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, ma in cuor l'ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, io vivo sol per rivederla un dì. Son figlio d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo e gliene renderò. Leo Turrini, Leo, posso chiederti, sì, un favore? Anche due. Senti, puoi chiedere a dire alla signora che c'è in coda vicino a te sulla Pero Cormano, puoi dirle, dille questa cosa, uomo... Come mai siamo in coda? Come? Siamo in coda sulla Pero Cormano, questo puoi lo sapere so. Perché. Sì, mi dici poi perché me lo dici dopo, ma prima di alla signora, uomo rialzava il Risi, senti cosa risponde. Cosa devo dire? L'uomo rialzava? Uomo rialzava il Risi, diglielo. Uomo rialzava il Risi. Non ti ha neanche dato una sberla? No. No. No, tranquilla. No, perché la questo... mi sembra, la signora interista come me è sotto shock, siamo tutti in coda perché c'è un vecchietto che non riesce a pilotare bene il suo bolide ed è lo zio di Ibra, vale a dire Kolarov, e quindi siamo qui lentissimi, hai capito? E le chiusure in difesa in questa Inter di Conte sono diventate una cosa, ma francamente aspettiamo giorni e momenti migliori, carissimo conduttore di tutti i convocati. Il problema è che io devo risolvere questo enigma. Uomo rialzava il Risi che sta spopolando nell'Italia dei social. Buongiorno Bartoletti. Buongiorno, beh, curiosa questa cosa, curiosa la canzone, curiosa questa cosa. Vero, poi, vero. Tra l'altro non mi intendo di anagrammi, sinceramente, anche se ieri ho preso parte a una bella cerimonia nel Salone d'Onore del CONI, dove è stato ricordato Gianni Mura, che era un grande anagrammista, tra l'altro. Sì, era un grande anagrammista, è stato detentore di quel premio extra che ti hanno dato ieri. Perché io non riesco a prendere il giudiziario, il fatto che l'abbiano dato a me dopo Gianni Mura, credo, e Gianni Minà. Ma prima di spiegarci questo, uomo rialzavi il Risi, che vuol dire? Secondo te, Ma se vuoi, aspetta, provo con lo scarabeo per vedere. Vediamo, Maurizio Sarri viola? Maurizio Sarri viola? Addirittura? Ma può essere, cioè, però sai, gli anagrammi sono tutti quanti interpretabili, naturalmente. No, perché tutti adesso pensano, siete diventati matti, sì, lo confessiamo. Sì, sì, però... ma infatti sono già scappati tutti, secondo me, dopo la sigla, dopo la Porti un bacione a Firenze 1938 cantata da Edoardo Spataro, e noi lo conosciamo benissimo, Spadaro, per la verità non lo conosciamo benissimo. Io e Marino, con questo grandissimo artista appena citato, facemmo una serata meravigliosa, mi ricordo, nel 1934 c'era anche Vittorio Pozzo, e fu in quella serata che Bartoletti disse: secondo me verrà il giorno in cui un toscano vero come Sarri allenerà la Fiorentina. E allora scrive su Twitter, per svelare l'arcano, scrive su Twitter appunto il professor Bartoletti: uomo rialzava il Risi, e tutti si scatenano, Sarri a Firenze, compreso Gene Gnocchi, che oggi rompipallone sulla Gazzetta, segnale che Sarri è sempre più vicino a Firenze, ieri il David di Michelangelo era in tuta. Questo Gene Gnocchi, ma puoi dire qualcos'altro, Marino, oppure no? Che stamattina ho parlato a lungo con Maurizio Sarri, e siamo un po' preoccupati per Nibali, sinceramente, perché sai, a una certa età sia i calciatori, anche quelli col numero 7, voglio dire, che i ciclisti sentono un pochino il logorio degli anni. Poi siamo preoccupati per Dovizioso, ci aspettavamo un po' di più quest'anno, è tutto un po' confuso nel moto mondiale, è una stagione strana effettivamente, in cui può succedere veramente di tutto. Sì, l'unica cosa che mi preoccupa comunque sono i weekend di Leo Turrini, perché una volta che non c'è la Formula 1, ecco che le prende nel derby. Ho detto prima, sai, noi adesso stiamo dando spazio a questa, possiamo dire, onda verde, no? Non quella del viaggiare informati, che è quella di Kolarov. Ma insomma, supereremo questa situazione, ci riprenderemo, speriamo nella Champions. Però ho sentito che Marino divaga, no? Cioè, prima gli anagrammi e tutto. Allora, io vorrei che Marino, che è molto amico della famiglia Almei, della maglia rosa, eccetera, ci svelasse se Sarri veramente va a allenare a Fiorentina o no. Perché se no, qui questa coda, la gente tutta comincia a dire: adesso hai capito, ci fanno persino gli anagrammi, al bar tour, eccetera. Allora, Marino, di la verità. Se la sai, diccela, no? No, io credo che sia una questione di, come dire, di disimpegni, di liquidazioni, sai, quelle cose che tu hai preso tante volte, no? In realtà poi non l'hai mai preso, perché sei rimasto nei secoli fedeli. Ah, ho capito, il bonus per il monopattino elettrico, si trova d'accordo su quello, in monopattino Sarri arriva a Firenze. Sento di poter dire che a Maurizio Sarri, ma credo ad aver intuito, sta molto simpatico il presidente della Fiorentina, però da qui a dire, dai, fermiamoci agli anagrammi e alla curiosità che hanno suscitato in qualche modo. Ti va bene? Ti va bene così? Sei soddisfatto? Marino chiaramente è il possessore ultimo della verità, e quindi se adesso gli piace giocare, no, perché Leo, una cosa si può dire: Amerigo Sarri, grande quercia, papà di Maurizio, prima o poi gli dirà: io ti ho fatto studiare una vita, perché tu mi diventi allenatore della Fiorentina. Ecco, però poi sai, i figli sono disobbedienti. No, perché vedi, Leo, Marino ormai è incontrollabile, no? Ce l'abbiamo lasciato una settimana fa che doveva andare al Giro d'Italia. Poi lo trovo a Salone d'Onore del CONI che prende il premio extra. Sono preoccupato perché settimana prossima non so dove lo possiamo trovare. No, ma francamente io mi sono sempre domandato come mai a Marino non sia ancora stato assegnato l'Oscar. Quello Hollywood, voglio dire. Cioè, sentir dire, va bene, Salone d'Onore, bellissimo, un premio nobilissimo, sono felice per lui. Però ormai uno come Bartoletti, che pochi lo sanno, ma fece la comparsa con me in Ombre Rosse, no? Adesso possiamo dirlo. A un certo punto voi vedete quella scena famosissima che arrivano degli indiani scarmigliati, no? Che sono tutti lì con le piume per aria, bim bum, ecco, uno è lui e l'altro sono io, no? E John Ford disse, il regista, disse a Marino Bartoletti: Marino, quando avrai finito di tenere nascosta la notizia che Sarri allenerà la Fiorentina, lì sarà venuto il momento in cui tu avrai diritto all'Oscar come miglior attore non protagonista di questa trattativa che coinvolge il bonus per il monopattino elettrico da Torino. Ma ancora le sbucciature sui gomiti per le cadute che facciamo noi, mica gli stuntmen, ti ricordi? Sì. Sì, io mi ricordo tutto là sul set, eccetera. Peraltro tu poi tiri un po' in baghito di quella biondina, ti ricordi? Quella, sì, ma c'era John Wayne che disturbava. Veniva dall'Oregon, no? E diceva: Barcioletti. Insomma, Marino aveva già allora un successo che poi si è esteso alle Ande, conoscete la sua vicissitudine con la sorella di Carapazza, adesso non so, con la cugina di Almeida, come si stia evolvendo la cosa, ma credo che prima dell'epilogo del Giro d'Italia conosceremo sia la verità su questo particolare scabroso, sia sul ritorno in panchina di Sarri con la Fiorentina. Io mi chiedo agli ultimi tre ascoltatori che sono rimasti che cosa gli raccontiamo adesso, sinceramente. Aspetta, traffico. Raccontagli se Sarri pensa di poter fare molto bene con la Fiorentina di commisso o no. Ecco, parla, gli ascoltatori che sono in linea adesso ascoltano le notizie sul traffico, così capiscono come vanno le cose sulla Pero Cormano. E poi raccontiamo altre cose. Un saluto a Bartoletti, il giornalista più titolato al mondo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Buongiorno a tutti, per quanto riguarda le squadre del Subbuteo, una era il Liverpool, l'altra era l'Everton. Escluderei categoricamente fosse l'Everton perché aveva pantaloncini bianchi e quindi non era l'Everton ma un'altra squadra inglese di cui... Poteva essere il City. No. Guarda, ti dico una cosa che farà impazzire i subbuteisti, compresi il mio amico Alessandro che abita a Terni, a cui racconto sempre che io non appartengo alla generazione di chi ha giocato su Buteo, perché io giocavo d'altra parte con Leo a tappetti, sai, quelli estirpati naturalmente dalle gazzose. Però come direttore del Guerin Sportivo mi trovai coinvolto in questo progetto meraviglioso che culminò con il Guerin su Buteo, che di fatto era un altro campionato italiano parallelo, e quindi io venivo sommerso da queste confezioni di giocatorini anni 70-80. E ne avevo talmente tante che dopo averle regalate a tutti, poi qualcuno temo di averlo anche buttato via. No, questa cosa qui è reato, dei problemi di coscienza, sinceramente. E beh, giustamente. Leniti, devo dire, dal fatto che ho in mano il libro che il prossimo anno vincerà il premio Strega, il premio Campiello e il premio Pulitzer, e si chiama Storie di una famiglia di tante figurine, firmato da Leo Turrini. Ieri Malagò, dandomi ho torto collo quel premio, ha detto: guarda, questo premio in realtà dovrei darlo a Turrini, ma non glielo posso dare perché ho scritto la postfazione del libro, capito? Quindi c'è legittima sospicione. Comunque accattatevillo, perché fra tempo 15 giorni questo libro non esisterà più, a meno che non ne venga ristampato un altro milione di copie. Hai capito, Leo? Beh, insomma, devo dire che Marino è il mio agente, come lo è per Sarri. Io sono molto contento perché so che lui risolverà la vicenda Sarri-Juventus per portarlo sulla panchina fiorentina, e come avete sentito sta lavorando magnificamente anche come promoter della mia fatica letteraria, ma è troppo buono. Il problema che rimane in sospeso qui è: adesso abbiamo addirittura due gran premi di Formula 1 in una settimana, prima in Portogallo e poi a Imola, pensate. Ma infatti io sono preoccupato per te. Con la Ferrari in questa situazione è una cosa... Vabbè, comunque adesso... No, io sono preoccupato per te, perché ormai domenica Spagna con le moto e Portogallo con la Formula 1, ormai più che un'attesa della corsa, che è una cosa bella, è l'attesa di una sofferenza annunciata. E d'altra parte Leopardi ci ha scritto una poesia su questo. No, io ho avuto anche uno scritto successo, sinceramente. No, volevo aggiungere una cosa, perché prima Marino ha fatto un cenno. Ma lo dico da tifoso della Ducati, io francamente faccio davvero molta fatica a capire come i miei amici di Borgo Panigale stanno gestendo la candidatura di Dovizioso a questo titolo mondiale. Cioè, l'episodio di sabato in qualifica mi ha sorpreso tanto, e è un peccato, perché come dite voi in Emilia, martellate sulle palle, è una cosa del genere, tafazziana. Per carità, magari avesse la Ferrari questa situazione, di essere in lotta per il titolo e di sbagliare nel gestire le sue forze in campo. Anche questa però l'abbiamo già vista, però, mi pare. È abbastanza sorprendente, devo dire, questa realtà, malinconicamente sorprendente. Però Marino, insomma, che era appunto con me là sul set di Ombre Rosse, no? E poi, insomma, ti ricordi quando John Ford ci disse: ma io vorrei anche utilizzarvi nel film L'uomo che uccise Liberty Valance. E anche lì, se andate a vederlo, effettivamente c'è una scena, no, dove sono in un bar che volano cazzotti, eccetera, che Marino è il barista e io sono il garzone di bottega, quello che porta via le casse vuote di whisky. Se vi ricapita, potrete apprezzare anche in quella circostanza, devo dire, che Marino aveva fatto colpo su questa ranciera che veniva dall'Illinois, che diceva: Marino, Marino, Marino, allora perché sa arrivare la Fiorentina? Vuoi tu spiegare, no? È stato lì che mi è venuta l'idea del Bartoletti. No, lì Marino tirava fuori degli anagrammi, delle cose per spiazzarci tutti qui in corso, davvero cormorale. No, io voglio segnalarvi, mentre andiamo verso la chiusura, voglio segnalare, purtroppo, ovviamente, quasi inutile aggiungere, vorrei segnalare che la community del Bartour, che è vastissima, nostro malgrado, su WhatsApp segnala che: Leo, tu non puoi proseguire verso, l'abbiamo sentito nel traffico, non puoi proseguire verso Varese perché l'autostrada è bloccata, quindi cerca di uscire. E poi a beneficio si fa sorpassare all'altezza lì, capito, perché è ancora inesperto un po', ma se si lascia passare Collaro, questo giovane, usciamo tutti prima di trovarci. Sei ingeneroso, sei molto ingeneroso, ma comunque segnalano a Marino che Almeida è stato bravissimo fin qui, ma salterà sulle grandi montagne. È l'opinione di Amerigo Sarri, sì, è la stessa opinione, effettivamente, anche se ci ha molto sorpreso questo ragazzo. Io penso che il favorito sia Kelderman a questo punto, parlando per un attimo serenamente dopo 25 minuti di conversazione in cui abbiamo detto tutto facendo finta di non dire niente, ma anche niente facendo finta di dire tutto. Quindi Nibali, ci mettiamo il cuore in pace. Guarda, io per scaramanzia ho sperato che dopo la debacle di Piancavallo succedesse quello che è successo nel giro del 2016, che fu la molla della sua riscossa. Però voi mi insegnate che nel 2016 aveva 4 anni di meno e un Michele Scarponi di fianco in più. Questi hanno 20 anni e sono incarogniti, ragazzi. Il mondo del ciclismo è cambiato. Una volta, quando si assegnava un titolo mondiale, in realtà era un titolo poco meno che europeo, perché lo si dava un italiano, un francese, uno spagnolo, un belga, un olandese, poco più. Adesso qui abbiamo gli australiani, gli neozelandesi, e gli ecuadoriani, a me tanto cari, i colombiani e altre cose. Insomma, è diventato veramente un mondo globalizzato e la nostra fetta di torta è diventata piccina, piccina, piccina. Dio ci mantenga Filippo Ganna. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio. Ricordo agli ascoltatori che il podcast del Bartour lo trovate sul sito di Radio 24. Tirando giù la Claire del bar fino a martedì prossimo. Ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti, grazie. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.